sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Crisi INPS, 1 milione di assegni di disoccupazione, più 52% l'anno. Marcegaglia, serve un patto nazionale contro la mafia. Le minacce di Teheran, i nostri missili possono colpire in qualsiasi punto del Medio Oriente. Germania, trionfa la Merkel, governo con i liberali, crolla la SPD. In apertura i dati diffusi dall'INPS, in un anno 1 milione di disoccupati. In diretta abbiamo Vincenzo Miglietta, che saluto, buon pomeriggio Vincenzo. Tu hai seguito per noi la conferenza stampa del Presidente del Commissario straordinario dell'INPS, Mastrapasqua, cosa è emerso? Sì, buongiorno, è proprio così, sono numeri quelli diffusi dall'INPS che fotografano in pieno il passaggio del sistema economico italiano nella crisi internazionale, effetti negativi quelli della congiuntura che si evidenziano nei dati relativi agli ammortizzatori sociali, cassa integrazione a livelli mai raggiunti in precedenza, crescita delle domande di disoccupazione, queste ultime ha spiegato il commissario straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Antonio Mastrapasqua, superano 1 milione. In un anno tra l'inizio di agosto 2008 e la fine di luglio 2009 l'incremento sulla l'anno precedente è stato del 52,2%, le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni hanno superato quota 615 milioni, con un aumento complessivo del 222,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La sfavorevole congiuntura economica che il Paese ha dovuto affrontare in questi mesi, si legge nella relazione di Mastrapasqua, ha riversato sugli uffici dell'INPS la responsabilità di sostenere i lavoratori in difficoltà. In generale comunque l'ultimo anno è stato positivo per i conti dell'INPS, con maggiori entrate e minori uscite. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo, naturalmente poi sentiremo nelle prossime edizioni del nostro giornale anche la voce del commissario straordinario dell'INPS Mastrapasqua. I conti pubblici, dunque cercare di mantenere i conti pubblici adeguati, ma il 20% del bilancio pubblico resterebbe inutilizzato dai ministeri. Il rapporto sulla spesa 2009 della Ragioneria dello Stato sostiene che lo scorso anno 90 miliardi di euro stanziati dal Parlamento e che esistono nel bilancio pubblico non sono stati spesi dai ministeri. Un'incapacità derivante anche dalla scarsa programmazione degli stessi ministeri e dall'obsolescenza degli obiettivi, rileva sempre la Ragioneria dello Stato. La notizia pubblicata oggi sul Corriere della Sera cita vari esempi, tra questi i fondi per i semafori e gli attraversamenti pedonali in Calabria e Sicilia gestiti dall'ANAS, 4,5 milioni di euro disponibili dal 2007 e ancora intatti. Al Ministero dell'Ambiente ci sono invece in bilancio oltre 650 milioni di euro assegnati e non pagati. Stessa sorte per le risorse della Pedemontana Veneta. 20 milioni assegnati alla Regione nel 2002, mai più toccati dopo una modesta erogazione nel primo anno. Ma il commissario straordinario per la Pedemontana Veneta, Silvano Vernizzi, spiega che non è così. Questa notizia non corrisponde al vero, nel senso che i fondi stanziati dallo Stato e anche ovviamente quelli stanziati dalla regione ci sono e sono stati accettati, quindi non è stato fra virgolette perso un euro in questa operazione. Non sono stati ancora erogati perché si è da poco concluso al Consiglio di Stato il ricorso sulla gara di affidamento della concessione. Adriana Fracchia, GR24, il sole 24 ore. È un vero e proprio allarme quello che lancia la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Lancia infatti un'idea di un patto nazionale nella lotta contro la mafia. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. È il cancro che avvelena la nostra società civile, così ha definito la mafia il leader degli industriali Emma Marcegaglia. Un giro d'affari ha ricordato che può arrivare a 400 miliardi di euro se si considera non solo la mafia in senso stretto, ma l'attività sommersa e illegale in generale. Ma ciò che più preoccupa la Marcegaglia sono reinvestimenti delle attività mafiose nei settori legali, la cosiddetta mafia pulita, titolo del libro di Elio Veltri e Antonio Laudati presentato qui a Montecitorio. La ricetta, secondo Confindustria, sta nella sensibilizzazione culturale, nel sostegno alle imprese che denunciano le attività illecite e nel lavorare per un progetto paese che dia forza allo sviluppo del mezzogiorno, ma soprattutto serve una mobilitazione dal basso. D'accordo il Presidente della Camera, la lotta alla mafia non va delegata alle istituzioni, dice Fini, occorre il coinvolgimento della società civile. Rispetto a qualche anno fa, dice però Fini, c'è maggior consapevolezza e si è voltato pagina, ma la politica non deve abbassare la guardia. Insomma, nella lotta alla mafia è evidente, dice Fini, che la politica deve essere un passo avanti, non indietro. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Prima di iniziare la lunga pagina internazionale vi do due notizie nuove. La prima si lega in qualche modo con il servizio di Alessandra sul cancro, mafia come cancro, perché è morto il figlio di Giorgio Ambrosoli, liquidatore del Banco Ambrosiano, ucciso 30 anni fa dalla mafia politica. E una notizia che ha raggiunto i familiari, la vedova dell'avvocato Anna Lori Ambrosoli e il figlio Umberto, che pochi mesi fa aveva fatto uscire anche un bellissimo libro proprio di ricordo del padre. E tutto questo è avvenuto mentre in molti erano al convegno dedicato alla memoria di Giorgio Ambrosoli, organizzato dalla Bocconi per commemorare, insieme alla figura dell'avvocato, anche quella di Paolo Baffi, scomparso 20 anni fa, dunque morto uno dei figli di Giorgio Ambrosoli, Filippo. E poco fa a Bologna il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, è stato duramente contestato dall'onda anomala, cioè dagli universitari di Bologna, nel corso di un convegno sui temi dello sport organizzato dalla Facoltà di Ingegneria. I manifestanti, diverse centinaia di persone, hanno lanciato vernice contro il cordone delle forze dell'ordine e alcuni fumogeni in via del Centri, nell'aula di Santa Lucia, in pieno centro storico. La pagina internazionale: la stampa tedesca celebra oggi la vittoria di Angela Merkel della CDU alle legislative di ieri. Tutti i giornali del paese dedicano alle elezioni le prime pagine, oltre al successo di Unione FDP. La stampa sottolinea il tracollo della SPD, che scende al 23%, il peggior risultato mai registrato dal 49. Angela Merkel, in arte Angie Superfrau, così come la chiamano i suoi sostenitori, vince anche sui suoi nuovi alleati, i liberali dell'FPD. Il partito guidato dal giovane intellettuale gay Guido Westerwelle diventa partito di governo. La CDU vince grazie alla Merkel e ottiene il 33,5%, perdendo l'1,7% dalle scorse elezioni. I liberali volano al 15% più 5,2% e tornano a governare dopo 11 anni d'assenza. I due partiti, dal campo moderato quindi, ottengono rispettivamente 229,95 seggi, ovvero 324 seggi su 598 del Parlamento federale. Bassa l'affluenza, forse la più bassa degli ultimi 60 anni, e tracollo dell'SPD, gli altri due temi importanti di queste elezioni tedesche. Gli elettori hanno scelto la Merkel affidandole un mandato chiaro: svolta conservatrice moderata, nuova coalizione di centrodestra con i liberali, ma soprattutto rottura della Gross Koalition con la socialdemocrazia che ha governato negli ultimi 4 anni. E per l'SPD, il più antico partito della sinistra europea, è il peggior risultato, una vera catastrofe. Meno 24%, non è mai andata così male. Restano all'opposizione, ma guadagnano consensi invece sia la sinistra dei Linke, che diventa il quarto partito tedesco, che i Verdi. Nell'immediato la Merkel dovrà affrontare almeno 4 temi forti: l'aumento della disoccupazione, la crescita del deficit, le difficoltà nel settore scolastico e sanitario e il capitolo energetico-ambientale, con la volontà dei cristiano-democratici e dei liberal-democratici di rivedere l'abbandono del nucleare. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Beh, sempre Cristina Carpinelli ha intervistato Angelo Bolaffi, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Il Partito Liberale ritorna al governo come lo era stato col cancelliere Kohl per 15 anni. Adesso, a questo punto, credo che l'elettorato tedesco si attenda un governo che prenda delle decisioni importanti in politica economica. Teniamo conto che la grande coalizione, per la verità, non ha governato malissimo. La Germania è il paese che ha il più basso tasso di disoccupazione in Europa. Ecco, quindi secondo lei a far decidere all'elettorato che è andato a votare, perché tra l'altro l'altro dato indicativo è la bassa affluenza, diciamo, quella è quello che ha punito la SPD. Sicuramente il 90% di chi non ha votato era un ex elettore socialdemocratico. Ma su questo elettorato che ha deciso di non andare addirittura, quindi un gesto molto forte, che cosa ha inciso? Per questo elettorato qui c'è la delusione della politica nei confronti del governo, ritenuto un governo troppo poco impegnato dal punto di vista sociale. C'è il problema dell'impegno tedesco in Afghanistan, tutti temi molto sentiti a sinistra, e soprattutto credo che sia un giudizio molto negativo sulla dirigenza socialdemocratica. Oltre alla Linke vanno bene anche i Verdi. I Verdi molto, ma questo ormai è un dato, ormai bisogna partire dalla constatazione che il sistema politico tedesco è composto ormai da 5 partiti, non è più come una volta in cui c'erano 2 grandi partiti e alcuni nani attorno a cui cespugli. Oggi esistono 2 partiti importanti che tendono però a perdere voti, cioè i democristiani e fortemente i socialdemocratici, e dei partiti una volta cosiddetti minori, cioè la sinistra, i verdi e i liberali, quindi fanno parte dello schieramento politico tedesco. Alle 13:10 minuti e 10 secondi su Radio 24 proseguono le notizie. Naturalmente non si fermano. In questi giorni, lo abbiamo detto più volte, le minacce dell'Iran a Israele. I nostri missili possono colpire qualsiasi punto del Medio Oriente, hanno detto questa mattina i vertici del regime di Teheran. E oggi, secondo giorno di esercitazioni militari, sono stati testati razzi a medio raggio e la testata Sharab 3, che sarebbe in grado di raggiungere Israele. In diretta Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Queste minacce verso Israele innanzitutto non sono nuove, quindi è un acutizzarsi delle minacce, però tutto questo è avvenuto dopo uno storico accordo e una storica risoluzione dell'ONU. Sì, soprattutto è venuto dopo la rivelazione sul nuovo impianto di arricchimento di uranio in Iran, il secondo dopo quello di Natanz, che si troverebbe a Qom, e alla vigilia, perché sarà giovedì, della ripresa dei negoziati del 5+1 in Turchia tra Iran e appunto i 5 paesi del Consiglio di Sicurezza più la Germania. Tutto questo, il lancio del missile e il fatto che questo missile possa raggiungere Israele, suona naturalmente un po' come una sorta di provocazione, e forse la riflessione più interessante da fare questa, cioè l'Iran di oggi, quello di Ahmadinejad e dei radicali che hanno preso il sopravvento, è un Iran che cerca di trasferire anche all'esterno le proprie tensioni, cioè questo innalzamento della tensione internazionale con l'Iran in qualche modo fa passare in secondo piano ciò che avviene sul piano interno e fornisce forse uno strumento ancora di più, uno strumento una volta di più di repressione per chi governa e per chi è in mano il potere. Grazie ad Alberto Negri, in diretta su Radio 24, numero 2 di Al Qaeda. Al-Zawahiri ha diffuso un nuovo messaggio audio nel quale elogia il leader talebano pakistano Massoud, ucciso dalle forze armate americane il mese scorso. La voce del medico egiziano, che si ritiene sia nascosto sulle montagne tra il Pakistan e l'Afghanistan, si ascolta in un video della durata di 28 minuti. Diario afghano. Il capitano Stacy Radinger, americana, si trovava a pochi metri dal punto dell'esplosione di un'autobomba il 15 agosto davanti al quartier generale di ISAF a Kabul. 7 morti, tutti civili, e un centinaio di feriti. I was in the building of where all the women live, which is very close to the entrance to the base. Ero nell'edificio dove alloggiano le donne, che è molto vicino all'entrata della base, quando c'è stata l'esplosione. È stato spaventoso. Tutto l'edificio ha tremato, sembrava un terremoto. Le donne correvano dappertutto, terrorizzate. Dal soffitto cadevano pezzi, c'era fumo ovunque, le luci erano saltate e c'era gente che bussava alle porte urlando: "Tutto ok? State bene?" Poi tutte insieme siamo scese nei bunker. Alcuni bambini che conoscevo, perché stavano sempre fuori dalla base a chiedere l'elemosina, sono morti. Mentre ricorda quei bambini, due lacrime le scendono sulle guance. Stacy è alta, bionda, ha un viso dolce. È madre di una bambina. Da 8 mesi si trova in Afghanistan, in uniforme, base a Kabul, ma un lavoro che la porta in giro per il paese. Abbiamo fatto lo stesso viaggio da Herat a Kabul su un C-130 che trasportava i Marines. Gli americani, presenti nelle turbolente province del sud come Logar ed Helmand, perdono in media un uomo al giorno. Molti in America si chiedono se vale la pena stare qui. Io penso che basti guardare i bambini afghani e allora ti vengono in mente i tuoi stessi figli. Basta stringere la mano di un uomo che ha lavorato duramente per costruire un edificio nella sua comunità e ti viene in mente tuo nonno o tuo padre. Penso che ci sia un motivo valido per essere qui, ed è che siamo tutti esseri umani. Mi sentirei in colpa se tornassimo nel nostro paese e abbandonassimo queste persone. La gente nel mio paese non dà valore alle cose che ha, mentre qui danno valore ad ogni piccola cosa. Lavare le loro mani prima di pregare, per esempio. Avere un pavimento pulito nella casa di fango e argilla. Forse alla fine di tutto questo saremo tutti un po' migliori, ma ci vorrà del tempo. Ed è tutto da Cristina Balotelli, che vi parla da Kabul. 13, 18 minuti e 47 secondi in studio Daniele Biacchessi, in apertura del secondo blocco del nostro genere, lo scontro nel Popolo e Libertà tra Berlusconi e Fini, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. È sempre il voto agli immigrati ad acuire contrasti già palesi tra il premier Silvio Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini. Ieri, alla chiusura della Festa Nazionale del Popolo della Libertà a Milano, Berlusconi ha bocciato la cittadinanza per gli stranieri dopo 5 anni di residenza appoggiata da Fini, bollandola come strategia subdola della sinistra, che per Berlusconi vuole spalancare le frontiere e far votare gli immigrati per loro. Inoltre il premier parla anche di PDL, di premiership. Non siamo un partito ma un popolo e non vogliamo essere una parte di qualcosa, ma un intero popolo di italiani che crede nella libertà. Parole che fanno eco a quelle sulla durata del governo. Per Berlusconi siamo gli unici in grado di governare, saremo qui per sempre. Questa mattina qui a Montecitorio Fini parla di lotta alla mafia con gli imprenditori e glissa sulle polemiche interne al PDL, ma a parlare il ministro degli interni Roberto Maroni. Non c'è nessuna egemonia della Lega dentro la maggioranza o il governo, dice, stiamo attuando il programma concordato con il popolo della libertà. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. La pagina della cronaca, veniamo alla perizia medico-legale depositata a Vigevano che scagiona di fatto Alberto Stasi dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Simone Spezia. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Innanzitutto da segnalare che questa perizia non è una perizia di parte, è stata affidata dal giudice Stefano Vitelli al perito super partes Lorenzo Varezzo. Ebbene, secondo l'esperto non è valutabile con precisione l'epoca della morte di Chiara Poggi, lo ricordiamo, uccisa il 13 agosto del 2007, per la quale l'unico accusato al momento è proprio Alberto Stasi. Non è valutabile con precisione l'epoca della morte se non affermando che essa avvenne nel corso della mattinata. Per quanto riguarda l'aggressione, questa è avvenuta almeno in due fasi cronologicamente ben distinte. L'episodio potrebbe essersi protratto per alcune decine di minuti. Questa perizia va incrociata naturalmente con le indiscrezioni che si sono diffuse nei giorni scorsi su un'altra perizia effettuata da 8 esperti informatici sul computer di Alberto Stasi, 8 esperti sia dell'accusa che della difesa che della parte civile, secondo la quale Alberto Stasi avrebbe lavorato al computer tra le 9:36 del mattino e le 12:20 del mattino, un'ipotesi che è emersa solamente nelle ultime settimane, che in realtà la difesa riteneva sbagliata. Ebbene, queste due perizie incrociate di fatto scagionerebbero Alberto Stasi. Daniele. Da Agrigento arriva una storia a metà tra calcio e cronaca. Il presidente della squadra locale è dedicato alla vittoria ad un boss della mafia. Un rotondo 5-0 in campo, mille polemiche e forse un'inchiesta della magistratura fuori. Il proprietario dell'Acragas, nobile decaduta del calcio siciliano che milita in eccellenza, Gioacchino Sferrazza, ha deciso di festeggiare il successo sullo Sporting Arenella dedicandolo all'amico fraterno Nicola Ribisi, ovvero il rampollo di una famiglia dalla lunga tradizione malavitosa, arrestato pochi giorni fa per associazione mafiosa. Alla reazione indignata di giornalisti locali, Sferrazza ha risposto imponendo il silenzio stampa a tutta la squadra. Qualche ora dopo il caso è diventato nazionale e il figlio del presidente ai nostri microfoni si limita a ribadire la discussa dedica. Non abbiamo niente da dire, questa vittoria è stata dedicata solamente a un amico, non è né di qua né di là. Questo può scrivere il figlio, poi lascia questo intervista dicendo che la vittoria è stata dedicata solamente ad un amico, non c'è bisogno di scrivere altre cose. Il procuratore della Repubblica di Agrigento di Natale potrebbe aprire un fascicolo sulla vicenda, mentre il questore di Fazio, che ha arrestato Ribisi pochi giorni fa, ha condannato le parole del presidente dell'Acragas. Dallo sport, ha detto il questore, arriva un messaggio che dà valore a chi non ne ha. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Braccio di ferro tra la Procura di Milano e i vertici di Google, accusati, secondo i magistrati, di non fornire i dati utili alle indagini. Botta e risposta in carta bollata tra la Procura di Milano e i vertici di Google, il motore di ricerca numero uno al mondo. A fare da sfondo, al braccio di ferro, l'inchiesta aperta dai magistrati milanesi in relazione al filmato con le immagini di un ragazzo down vessato da quattro studenti della scuola Steiner di Torino, finito nel 2006 su Google Video. Inchiesta che vede indagati per concorso in diffamazione e violazione della privacy quattro dirigenti italiani della compagnia. Alla richiesta di chiarimenti sulle linee guida osservate da Google in merito a localizzazione del server e competenza giuridica, l'ufficio affari legali del Colosso ha risposto un piccato: decidiamo noi cosa svelare, persino in presenza di pericolo di morte. Google, inoltre, rivendica di non conservare i dati, come gli account Gmail, per più di 30 giorni, contro i 12 mesi imposti dalla normativa italiana. Risposte che il procuratore aggiunto di Milano, Corrado Carnevali, prima di controreplicare alla società americana, ha inoltrato a tutti i PM della Procura, indicandole come non conformi al diritto italiano. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora il nostro sondaggio sulle ronde. Quella parola un paio di mesi fa ha diviso gli italiani, ora anche i nostri ascoltatori. Ronde, ricordate? Il pacchetto sicurezza approvato ad agosto prevede la possibilità di creare questi organismi fatti da volontari cittadini che pattugliano il territorio. Ma visto che due mesi dopo le richieste sono scarse, ci siamo chiesti: ma allora davvero servono queste ronde per la sicurezza? Ebbene, sul sito della radio il 70% di ascoltatori dice di sì, mentre sul sito del Sole 24 Ore chi ha votato l'ha fatto in modo opposto, 70% di no. Non resta che sommare i voti, fare la media e voilà, tra tutti i votanti vincono i no. Le ronde non sono necessarie, ma di poco. Il 56% la pensa così. Bianco o Nero torna domani, in onda dalle 8.30, mentre per votare basta un clic su radio24.it o ilsole24ore.com. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Il ministro del turismo Michela Brambilla ha presentato oggi il rapporto sul turismo nel 2009. Michela Brambilla è stata intervistata dal nostro Andrea Viali. L'offerta turistica ha saputo ridisegnarsi, i nostri albergatori hanno praticato sconti intorno mediamente al 7%, questo naturalmente ha fatto sì che poi il fatturato globale del comparto sia diminuito, ma a livello di presenze possiamo dire che quest'anno abbiamo chiuso in pari con l'anno passato, anche perché molti italiani, a differenza degli anni precedenti, hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Italia. Non avevamo altra scelta, così il ministro svizzero della giustizia Shimov ha risposto alle critiche dopo l'arresto a Zurigo del regista Roman Polanski. Era sulla lista dei ricercati dell'Interpol e con gli Stati Uniti abbiamo degli accordi vincolanti, ma intellettuali e istituzioni chiedono la sua immediata liberazione. La prima volta ne parlò nel 1987 in un'intervista a Diane Sawyer. Do you want to come back? I certainly would like to be able to go back. Can we start it again? Of course. I need a second. Roman Polanski era teso, chiese di ricominciare l'intervista da capo. Non aveva mai raccontato di quando, 10 anni prima, aveva costretto ad avere un rapporto sessuale con lui, Samantha Geimer, 13 anni, a Los Angeles, in una casa allora di proprietà dell'attore Jack Nicholson. I know now it was not the right thing to do, but there was no premeditation, you know, it was something that just happened. Ora so che non era la cosa giusta da fare, ma non ci fu premeditazione, semplicemente successe. La ragazza lo denunciò, lui riconobbe la sua colpevolezza, ma si difese dicendo che la giovane era consenziente. Fu condannato a 42 giorni di carcere, fu rilasciato con la condizionale, ma nel timore che i giudici lo condannassero a un ulteriore periodo di carcere, lasciò il paese. Da allora Polanski non è mai più tornato negli Stati Uniti, nemmeno quando vinse l'Oscar per Il Pianista. Goes for Roman Polanski. Congratulates Roman Polanski and accepts this award on his behalf. La Francia e la Polonia, così come l'Associazione dei registi polacchi, chiedono ora la sua liberazione. La vittima dello stupro, che ora ha 45 anni, chiede che il caso venga chiuso, che le accuse siano ritirate e dice: anch'io sono diventata vittima delle azioni del procuratore. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:27 minuti e 44 secondi, vi saluto qui Daniele Biacchessi alla regia, Filippo Auregi. Le prossime notizie alle 14:00. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.